Letture di Radio 24. Il 23 novembre del 1995, una sentenza definitiva della Corte di Cassazione condanna all'ergastolo Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, accusati di essere gli autori materiali della strage di Bologna. I due terroristi appartenenti al gruppo di estrema destra dei NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari, pur riconoscendosi colpevoli di molti altri crimini, si sono sempre dichiarati estranei all'attentato avvenuto il 2 agosto 1980. Nel corso degli anni, inoltre, sono emerse altre ipotesi sui mandanti della strage, che riconducono da una parte a una pista palestinese, dall'altra ai servizi segreti dell'ex Unione Sovietica. L'esigenza di attribuire una matrice di destra all'attentato era emersa fin dalle prime ore dopo la strage, come racconta Andrea Colombo nel libro Giusva, la vera storia di Valerio Fioravanti. Quando, in quella tremenda mattinata dell'agosto del 1980, Francesco Cossiga definì la strage di Bologna di chiara marca fascista, non solo difettava di prove, ma anche gli indizi storico-culturali su cui si basava erano, per diversi ordini di motivi, di segno opposto. Perché i fascisti non erano più quelli di 10 anni prima, perché l'ala più radicale dell'estrema destra, quella che sarebbe stata poi accusata della strage, era in realtà la più distante da ogni tentazione stragista, e perché, a differenza di quello attivo nel ciclo precedente, l'estremismo di destra era privo di qualsiasi collegamento internazionale tale da motivare una strage. Il fascismo della fase golpista aveva effettivamente un qualche respiro internazionale, anche se certamente meno pronunciato di quanto non vagheggi la fantasia complottista e dietrologica. Quella dei NAR è invece una storia italiana, e anzi si potrebbe dire, con appena un pizzico d'esagerazione, che è una storia romana. Alla fine degli anni 60, i fascisti italiani erano parte di una rete internazionale forte e sostenuta dalle aree più spregiudicate dei servizi segreti atlantici. 10 anni dopo, di quella rete era rimasto ben poco. I contatti internazionali si erano spostati dall'altra parte dell'Atlantico, nei paesi sudamericani retti da dittature militari. Ma se quegli alleati potevano offrire riparo e protezione, non potevano, né peraltro volevano, impicciarsi degli affari europei. Nella tremenda estate del 1980, insanguinata nel giro di poche settimane da due stragi senza precedenti, quella di Ustica e quella di Bologna, la penisola era ancora, e forse persino più di prima, teatro di un confronto che andava molto al di là dei suoi confini. Però non si trattava del classico scontro sotterraneo tra est e ovest. La guerra fredda strisciante che aveva fatto da cornice al terrorismo stragista del decennio precedente. Si trattava invece di un conflitto ben più limitato e locale, quello che si giocava per il controllo dell'area mediterranea, che però vedeva l'Italia coinvolta direttamente nel ruolo non più solo di campo di battaglia, ma di potenza locale a tutti gli effetti. Nell'anno di Ustica e della strage di Bologna c'erano almeno 3 motivi di tensione internazionale legati in un modo o nell'altro allo scacchiere mediterraneo. Il mai sopito conflitto con Francia e Inghilterra, conseguente alla crescita dell'influenza italiana nell'area, in seguito al golpe del 1969 in Libia, del colonnello Gheddafi, pilotato dall'Italia, e al rapporto privilegiato che era stato stretto tra il nostro paese e la Libia. La tensione creatasi tra l'Italia e la stessa Libia in seguito alla crisi di Malta, nella quale il nostro paese era arrivato a minacciare un intervento armato in difesa dell'isola qualora Gheddafi l'avesse attaccata. Il braccio di ferro in corso con il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, in seguito all'arresto del responsabile dell'Organizzazione per l'Europa, Abu Saleh, e al sequestro di un missile palestinese, nel corso di un trasporto nei pressi di Ortona, in contrasto con l'accordo segreto, stretto nel 1973 da Aldo Moro con l'OLP, in base al quale i palestinesi potevano trasportare impunemente materiale bellico sul territorio italiano, purché non lo usassero all'interno dei nostri confini. Queste erano le tensioni internazionali che agitavano l'Italia assai più che la guerra fredda in quel 1980. Non si può naturalmente escludere l'esistenza di rapporti tra una parte del neofascismo italiano e l'una e l'altra delle parti in causa sul fronte medio orientale. Nessuno di questi fili, eventuali e tutti da dimostrare, tra i fascisti italiani e gli attori dello scenario mediterraneo, rinvia però al gruppo originario dei NAR, che resta dall'inizio alla fine della propria breve e violenta esperienza una realtà del tutto contenuta nei confini nazionali, che non dispone e non cerca, anzi diffida, di qualsiasi contatto internazionale. Nessuno di questi dati era noto 30 anni fa. La convinzione generalizzata sulla matrice fascista della strage di Bologna, a cui Cossiga diede solennemente voce e che fu sfruttata ad arte da chi voleva chiudere il prima possibile la vicenda, era comprensibile. L'idea che i fascisti fossero tutti uguali e sempre uguali, stragisti per vocazione, quasi per DNA, discendeva dal ruolo che agli eredi del regime era stato assegnato dalla cosmogonia repubblicana. L'altro da sé, il soggetto minoritario e costitutivamente antagonista, necessario per fornire il collante e il denominatore comune alla maggioranza democratica. In quest'ottica non avrebbe avuto senso considerare i neofascisti come un soggetto politico a tutti gli effetti, riconoscerne le evoluzioni e considerarne le articolazioni interne e le differenze a volte profondissime. 30 anni dopo, però, quelle lenti dovrebbero essere cadute per lasciare il posto a un'oggettività allora impossibile. Per questo la sentenza sulla strage di Bologna, che condanna Inar sulla base di indizi inesistenti e di un teorema storico-culturale, è un insulto sia alla giustizia, sia a un'onesta ricerca storica. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro Giusva, la vera storia di Valerio Fioravanti, di Andrea Colombo, Nicola Rao e Luca Telese, Sperling & Kupfer, 110 pagine, 19 euro. Al libro è allegato un DVD con un film di Francesco Patierno che ricostruisce la vita di Valerio Fioravanti. Il gossip più caldo di Pechino è tutto in un quesito. Tra 7 mesi, quando Xi Jinping diventerà l'uomo forte della Cina, sua moglie, Peng Yuan, continuerà a fare la cantante? I precedenti non sono favorevoli. L'attuale first lady cinese, moglie di Hu Jintao, si fa vedere molto raramente e, ben inteso, non canta. Altrettanto discrete sono state le altre signore del potere, con un'eccezione che non aiuta. Jiang Qing, ultima moglie di Mao, ex attrice, fu arrestata nel 1976 e condannata assieme ai suoi complici della Banda dei Quattro. Ma da allora la Cina è molto cambiata. E soprattutto sarebbe un errore sottovalutare Peng Yuan. I suoi spettacoli attirano folle oceaniche. Ha ricevuto i più alti riconoscimenti della Repubblica Popolare per il canto. È maggiore generale dell'esercito e spesso si esibisce in un tripudio di bandiere e divise, anche se gli stessi cinesi la considerano una cantante folk. Infine, tanto per capire il rapporto, va detto che Xi dovette sudare 7 camicie per convincerla a sposarlo. Per dirla in breve, malgrado la ferrea disciplina che governa il PCC, è difficile immaginare che Peng si rassegni al pensionamento canoro. E del resto si dice che Xi, interrogato sull'argomento, abbia risposto: «Perché? Carla Bruni ha forse smesso di cantare? Vedremo». Ma intanto le male lingue di Pechino prevedono che i cinesi si porranno la classica domanda: chi è quel signore vicino a Peng Liyuan? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Franco Venturini La First Lady canta, dopo la Francia tocca alla Cina, dal settimanale Io Donna del 10 marzo.